better. Run, run, run, run, run away. Ah no, abbiamo già fatto. Sì, ma siamo in crisi, K, in crisi da bestie su questa, per questa edizione di Chiedo Asilo, perché non c'è più la Roma, cioè la Roma squadra del cuore. Ah, ricordo, calcio, no? Calcio, aspetta, calcio, allora bisogna calcio. Dai, fallo, allora. Vabbè. Evviva, evviva. L'anno scorso avevamo la Roma come squadra. Sì, ho capito. Perché invece c'erano gli allenatori giovani. Perché erano infantili, i propri giocatori, Totti, Erpupone. Solo che quest'anno come allenatore alla Roma è arrivato Zeman. È vecchissimo, dai, c'ha più di 60 anni. Quindi non possiamo più, cioè siamo senza squadra del cuore, capito? Sono molto dispiaciuto, no, bravo. Lo so. Però dobbiamo trovare qualche altro rappresentante dell'asilo globale italiano su cui riversare il nostro affetto, il nostro interesse. Hai ragione. La lente di ingrandimento. Mi viene in mente, cioè lasciando da parte un attimo il calcio, viene in mente il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Federico Pizzarotti. Ma sì, dai, scusa, è giovane, è inesperto, probabilmente combinerà un sacco di casini. Pizzarotti. Mi sembra la persona ideale, Drago, per essere il nostro uomo Chiedo Asilo 2012-2013. Federico Pizzarotti. È interessante, Pizzarotti. Potremmo anche fare una, come si chiamano, le primarie, le secondarie, insomma, fare qualcosa. Siamo qui per, no, dico qui a Chiedo Asilo, sì. Vedere se c'è qualcuno che è meglio di Pizzarotti. Vabbè, per dai. Me no, su per Facebook me no, perché lui ha una. Così, cioè, la dialettica di Pizzarotti è formidabile. Sentiamo. Adesso mi sta chiamando. Aspetta, te lo faccio sentire. Sentire come gliele canta Chiara al Consiglio Comunale di Parma adesso che mi sta telefonando. Io capisco che in passato siate stati abituati, chi da una parte o chi all'altra, a fare opere che siano anche visibili per essere magari rivotati, per andare a tagliare dei nastri, però questa non è la nostra logica, questa non è la nostra ottica, non è questo che ci interessa. Capito, lui non fa le cose per farsi vedere e per tagliare dei nastri. Vabbè, lui deve tagliare la corda più prima che poi, probabilmente, che lo caccia. Sì. Pizzarotti ha detto che il suo libro preferito è Il gabbiano Jonathan Livingstone, hai capito? Allora è dei nostri. Cioè, robe di gabbiani, capito? Libertà, robe che si leggono, non so, a 10 anni, 11 to forse. Quindi è dei nostri. Chiedo asilo. Federico Pizzarotti, detto pizza, non volevano neppure che fosse in lizza. Chi lo vota questo mezzo catechista, questo insipido mediocre moralista? E invece poi la gente di Parma, reduce da un'amministrazione disastrosa e dal crack di Tanzi, lo ha votato in massa. Federico Pizzarotti è viva e viva, con la fascia tricolore, ma che bella diva. Ex bancario di famiglia, assai modesta, tipo serio non si monta mai la testa. Sai che lei sta bene come mi incazzo, quindi vabbè, se è no, no, è no. È qui, gliel'ho fatto poi sul palco. Aspetta, sì, ma sul palco, li mando a cagare anche sul palco, ricordatevelo. Lucia Annunziata, Lucia Annunziata. Annunziamo Lucia Annunziata. Guarda, Lucia Annunziata con sto apostrofo non mi ha mica convinto, sai, capo. Ma quale apostrofo? L'apostrofo che c'è nella testata del suo strombazzatissimo Huffington Post Italia, che si chiama appunto Huffington Post. È l'apostrofo Huffington Post. Vabbè, scusa, il Huffington Post suonava male. Vabbè, no? Ma scusa, se la H di Huffington è consonantica, dovrebbe essere lo Huffington Post. Vabbè, allora se la metti così dovrebbe essere anche lo Hardware, lo hi-fi. Scusa. L'H si ammutolisce, no? Si dice l'hardware, l'hi-fi. Quindi l'Huffington Post. Vabbè, ma fanno casino anche loro. Scrivono cose come nel messaggio di benvenuto c'è scritto, ad esempio, l'arrivo in Italia di l'Huffington Post, con L maiuscolo e tutto quanto. Poi un po' più in là scrivono nella famiglia dell'Huffington Post, come con la preposizione articolata, del, senza L maiuscolo, apostrofo, Huffington Post. Poi, no, avrebbero dovuto scrivere nella famiglia di l'Huffington Post, con ecco. Poi, per non parlare che una volta su due chiamano la testata l'Huffington Post Italia e una volta su due addirittura l'Huffington Post senza Italia oppure anche Huff Post. Non ho capito niente. Huff Post e anche l'Huff Post, sì. Scritto H-U-F-F Post, hai capito? Post. Vabbè. Ma il nome c'era già, Huffington Post. Sì, però no, ma appunto c'era, è, no? The Huffington Post in inglese, no? Sì. O Huff Post, sì. Però in Italia potevano chiamarlo, non lo so, non lo so, è un fatto casino. Ma alla fine tu hai capito che cos'è? Questo? A parte che non so nemmeno ancora bene come si chiama. A parte quella roba lì? No. Ah, ok. weasel. Pop, pop, pop goes the weasel. Pop, pop, pop goes the weasel. Pop goes the weasel. Giovedì. No, giovedì non esiste. Giovedì non è, sì, giovedì. Comunque è il giorno dei talk show politici per antonomasia. Dei, no? Fight Club. Però deve ancora scendere in campo il numero uno dei talk show, cioè il bambino Santoro. Ma non deve andare alla 7. Sì, subentra Formigli verso dicembre, fanno la staffetta. Ma poi la 7 la vendono? Che casino succede? Vabbè, attenzione. Vendono anche Santoro e Formigli. Certo, finisce tutto così. Nella fattura, ma adesso che Santoro anche... va alla 7, Formigli, sì, è contento? Vabbè, ma poi torna in primavera, capito? E allora sarà contento poi Santoro. Vabbè, ma più di tutti Rosica Mentana, che gli scoop quelli lì se li tengono loro. Si era incazzato quando Formiglia aveva fatto sentire la registrazione di Povia qualche giorno fa. No, di Favia. Cosa c'entra Povia? Scusami. Però Povia potrebbe essere un grillino. Povia. No, dai, Tito, ma perché Povia? Vabbè, dai. I bambini fa. Sì, vabbè. Comunque dicevo che Mentana aveva fatto un po' di sarcasmo quando Formigli fece sentire il clamoroso fuori onda di Favia contro Casaleggio, visto che la registrazione risaliva a giugno e Formiglia aspettava di tornare in onda a settembre. Sai sempre, Drago, che quando si parla di Casaleggio, per favore non prenderlo per un guru. Assolutamente no. Non prendere era... per il guru no, è una guru, Io non ho mai preso per un guru, allora, nessuno, ecco, tanto meno stai Casaleggio. Attento, perché ci registrano. Stavo citando questa cosa qui con del Povia, con Favia. Aveva a giugno detto tutte queste cose contro Casaleggio. Formiglia l'ha registrato, però non andava più in onda a giugno, no? Quindi ha aspettato fino a settembre per poter poi rendere pubblica questa cosa. E allora Mentana, un po' polemicamente, ha detto durante il TG: ci si chiede se Formigli fosse tornato in onda a novembre, se avremmo saputo del fuori onda solo a novembre, no? Ecco. Come per dire, io faccio il TG tutti i giorni, sempre con immagini di repertorio. Sì, poi il suo pippolotto di 10 minuti all'inizio. Non mai niente di particolare da dire, tra di speciale. Voi avete gli scoop e ve li tenete tutti per voi invece di darli a me? Tutto questo sottotesto era nella frase di Mentana. Ma sì, ma si capiva benissimo che voleva dire: io faccio il TG tutti i giorni, sempre con immagini di repertorio e mai niente di particolare da dire, voi avete gli scoop e ve li tenete per voi invece di darli a me. Si vedeva chiaramente. Comunque è una bella guerra quella tra Santoro, Formigli, Mentana, Lerner, tutti sulla 7, tantissimi galli in un pollaio. Sì, poi c'è Lilli Gruber anche. Sì, vabbè, lei non è un gallo. Lei fa buon brodo. Drago, ma cosa fai? Ma dai della gallina vecchia a Lilli Gruber. Ma l'hai detto tu, eh? Io ho detto niente. Ma hai detto del brodo. Ma tu hai detto della gallina vecchia. Vabbè, Lilli, dai, non prendertela. Tanto comandi tu, no? Dopo le 8:30. Ma cosa fai? La metti nel pentolone come l'esploratore in Africa? Cucinava la giornalista in pentola, ti vesti come un pirla, ma questo no, non sirla, sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'è quello del ritmo, di sicuro c'è quello del ritmo, di sicuro, una stella, di sicuro c'è quello del ritmo, ora ti sfondo i bonghi per vendicare l'Africa, quella che cucinava. Ti vesti come un rasta, ma questo no, non basta, sarai pure senza problemi, ma di sicuro c'è quello del ritmo, ma di sicuro c'è quello del ritmo, ma di sicuro c'è, ma... Mancano 70.000 tanto, vabbè, lo tagli. Mancano 72 giorni alla fine del mondo.